E Wombat, bentornati qui in regia dopo la sigla di stasera, una sigla che ho i brividi, vabbè, però non potevo non mettere questa, la mitica Jaguar di DJ Rolando, anno domini 2000, perché questa è sicuramente forse il 12 pollici che ha avuto più successo a livello commerciale del protagonista, anzi dei protagonisti di stasera, ovvero questa volta vi parlerò di un'etichetta, però non nello specifico di tutta la storia dell'etichetta, perché sennò si potrebbe andare avanti qui per una settimana a diritto e non me la sento, ma di un periodo specifico di questa etichetta, che è la leggendaria Underground Resistance di New York, sì, di New York, di Detroit, scusate, assolutamente di Detroit, 100% Detroit. E appunto in questo 12 pollici, veramente entrato nella storia dei club, nell'edizione della FIAS, che Play It Again Sam, c'era insieme addirittura sulla facciata A quello che poi è diventato un altro standard, ovvero il Mayday Mix di Derrick May, di questa canzone, ma c'erano anche remix, per la cronaca, anche remix di Jeff Mills e degli Octave One, praticamente il Gotha di Detroit per questo 12 pollici di DJ Rolando, che è appunto uno dei tanti artisti che formano il collettivo Underground Resistance, perché ancora prima di essere un'etichetta, Underground Resistance è un collettivo. Però prima di tuffarci in pieno a Detroit, ricordiamo tutti i nostri indirizzi, come sempre il nostro sito, il nostro punto di riferimento, wombat.noblogs.org, la nostra amata mail che è postawombat@insiberia.net, e i nostri social, ci potete trovare su Twitter a Radio Wombat Fi e anche su Facebook a Radio-Wombat-Firenze. Contattateci e fateci sapere, dateci consigli, vorreste sentire nuove trasmissioni, consigli, tutto quello che vi pare, infamate, fatevi sentire. Però ributtiamoci in pieno in questa avventura di Underground Resistance, perché non è mai stato chiarissimo il numero di elementi che si celavano all'inizio dietro la fondazione di UR, che sarebbe l'acronimo appunto di Underground Resistance, però è praticamente ormai appurato che iniziarono tutto Mad Mike Banks, detto Mad Mike, e il mitico Jeff Mills. E poi in una fase praticamente subito successiva si unì a loro anche Robert Hood. E il gruppo è stato considerato in tutto e per tutto come il fautore della seconda generazione techno di Detroit, quella generazione che ovviamente seguiva le gesta dei famosi tre di Belleville, ovvero Juan Atkins, Derrick May e Kevin Sanderson, a cui ho già dedicato una puntata a testa. Però è proprio da questo punto sul quale soffermarci per capire appunto la natura dirompente del suono che stava prendendo forma in quegli anni a Detroit. Infatti, mentre l'attività produttiva dei 3D Belleville era qualcosa di puramente musicale e passionale, il passo avanti compiuto da Underground Resistance fu quello di utilizzare la musica come un mezzo di denuncia politica e sociale, cosa che invece i 3D Belleville era appunto solo una questione puramente musicale. inquadrando un attimo il periodo politico americano del quale si sta parlando, appunto era l'America che erano negli anni era messa sotto lo scacco matto di Reagan e Detroit stava cominciando a avvertire i primi sintomi del tracollo industriale che ai giorni d'oggi ormai è diventato disastroso senza punto di ritorno appunto per Detroit. E quindi il pensiero comune fu quello di far parlare soltanto i dischi, celando dietro le persone, dietro un anonimato che fosse simbolo di un messaggio che volle andare oltre la parola, utilizzando come messaggero l'unico mezzo in grado di trovare al cervello e al cuore della strada per immaginare un futuro diverso. E lo faceva appunto utilizzando suoni, arrangiamenti e ritmi che potessero restituire all'ascoltatore una prospettiva serena e pacifica di qualcosa che non esisteva, ma che tutti avrebbero voluto tale. E poi c'è anche dell'altro per inquadrare appunto quel momento specifico di Detroit, ed è più appunto legato in senso stretto alle vicende della città, ovvero nei primissimi anni 90, infatti Atkins, Sanderson e May prima, ma anche Blake Baxter, Eddie Fleshing Folkes e Carl Craig in seguito, iniziarono a cavalcare l'interesse europeo per il nuovo suono di Detroit, legandosi ad etichette e suonando con insistenza nel vecchio continente e lasciando un po' da parte la città dei motori. Ed è proprio in questo contesto che Mike Banks interviene lanciando un messaggio proprio ai tre di Belleville e dichiarando di fatto l'intenzione di riappropriarsi delle proprie radici detroitiane. E l'etichetta apre ufficialmente nel 1990 con un disco che sembra ancora oggi un'eccezione nel primo periodo di Underground Resistance, e si intitolava Your Time Is Up, firmato appunto dal collettivo Underground Resistance insieme alla voce di Yolanda Reynolds. Un disco assolutamente house, pieno di grazia, che appartiene più a quel filone garage, diciamo più newyorkese, ma è abbastanza poco rispetto a poi quella che sarà l'avventura di UR e poi il collettivo svilupperà in seguito. Ma infatti, parallelo a Underground Resistance, Mike Banks fonda anche altre due etichette che sono la Happy Soul e la Happy Records, appunto dove potrà dare sfogo al suo lato più melodico e house. E dopo questo primo sketch di questo UR numero 1, gli schemi saltano in aria ed ogni attività legata al collettivo passa attraverso un chiaro messaggio politico oltre che musicale. Sin da subito gli altri soldati, ovvero gli altri della Detroit Techno Milizia, hanno iniziato ad unirsi al progetto. Molti giovani producer detroitiani carichi di armi soniche pronte a sostenere la guerra che stava per venire, la guerra tra virgolette che stava per venire intrapresa appunto. Ed è con lo UR numero 3, 1991, The Final Frontier, che è un incredibile scheggia electro su un taglio techno soul con cosmiche declinazioni acid, che è stata tagliata appunto in questo mix dal solo Mike Banks, che diventa subito chiaro quello che poi da lì in poi Underground Resistance diventerà, e The Final Frontier diventa istantaneamente una sorta di archetipo del genere e forse anche qualcosa oltre il genere. È sicuramente un pezzo che illumina e illuminerà tutta la techno di Detroit che c'era stata prima e che ci sarà stata poi, e quindi non posso che non farvi sentire The Final Frontier, Underground Resistance 1991, Wombat. Thank you. Wow, un pezzo veramente epocale, The Final Frontier. Magari non ha mantenuto quella totale freschezza e innovazione che poteva avere nel 1991, però ha avuto un'influenza incredibile sulla techno sicuramente, ma poi anche su una buona parte della, cioè, sicuramente su una parte anche di certa musica elettronica ha avuto ispirazione. Grandissimo pezzo. E per venirci incontro, per cercare di comprendere meglio il percorso intrapreso da Underground Resistance, ci vengono in aiuto proprio alcune parole che Mike Banks ha rivolto ad un suo amico. Nel complesso, penso che la musica sia più uno strumento che non arte. Forse questa prospettiva può aiutarti a capire. Come puoi vedere, per noi, gente di colore, gente di periferia, la musica è uno strumento di vita. Per guidare l'auto e rilassarti mentre sei nel bel mezzo del traffico, usi la musica. Per sposarti con la donna più speciale della tua vita, usi la musica. Quando muori, per confortare la tua famiglia, usi la musica. Per prendere la tua donna nel mood giusto per fare l'amore, usi la musica. Per far addormentare un figlio, la madre gli sussurra una canzone. Quando sei triste e tutto nella vita va a puttane, noi ascoltiamo il blues per cercare di capire come risollevarci da questo buco nero. Quando una persona perde la sua strada nella vita, alcune volte della musica speciale può aiutare a ritrovare la giusta via mentre sei nell'oscurità. La domenica, quando Dio deve essere celebrato, noi usiamo la musica. Vabbè, i neri sono anche un po' baciapile. Penso che noi avanziamo e miglioriamo come esseri umani. Ma la scienza scoprirà anche che i cosiddetti popoli primitivi fossero in realtà più avanti. Gli scienziati scopriranno che la musica e i suoni saranno in grado di curare malattie, cecità, problemi di natura mentale e molti altri disturbi che la medicina convenzionale non è in grado di curare. In quest'ottica vedo la musica come uno strumento e coloro che la creano come degli artigiani. Se la musica di Detroit e la musica soul fanno per te quel che mi dici, allora questo strumento sarà qualcosa di necessario per scoprire gli aspetti più profondi della tua persona. In molte cosiddette culture primitive, alcune persone possono trovare il proprio io soltanto staccandosi dal proprio corpo mentre ballano. Lo scopo è proprio quello di guardarsi dal di fuori, l'unico mezzo per conoscere veramente se stessi. Questo è quello che molte tribù indiane d'America fanno quando ballano incessanti ritmi ripetitivi come in Star Dancer. Non è necessaria nessuna droga, serve solo il sudore e la vicinanza con i propri fratelli. Allora potrai uscire dal tuo corpo, elevarti e capirti veramente. E appunto per questo il secondo epocale pezzo di Underground Resistance, l'Underground Resistance numero 10, Riot. Questa era Riot degli Underground Resistance, il loro forse il primo pezzo veramente fortemente politico, con questo sample di Martin Luther King, il synth come sirene, ma appunto è il primo, uno dei... ecco, sicuramente il primo più importante a livello di messaggio. Appunto, questa era Riot e l'Extended Play, l'EP si chiamava appunto uguale Riot, e basta anche solo guardare i titoli delle altre tre canzoni di queste EP per capire un po'. Per tastare appunto il polso di questa nuova uscita di Underground Resistance. Oltre Riot, la seconda traccia è Panic, poi Rage e Assault, e è proprio la corona sulla militanza politica di Underground Resistance. È il corrispettivo tecno dei Public Enemy, praticamente, secondo me. E infatti, dopo queste EP del 91, un paio di anni dopo, scoppieranno i disordini a Los Angeles, e queste EP è stato un po', diciamo... Si può vedere anche un po' come un termometro della rabbia repressa degli afroamericani in quel periodo. La techno non sarà più la stessa dopo pezzi come questa Riot o come Method of Force a nome The Punisher, uscita come UR17, che delineeranno quel filone Riot Core che poi sarà cavalcato da Alec Empire degli Atari Teenage Riot. E sempre nel 92 si apre con un altro ennesimo classico per Underground Resistance, stavolta a nome World to World, uscito come You Are numero 20, un disco di techno jazz sublime, caratterizzato appunto da la grande Amazon, e Underground Resistance nel 92 porta al picco la sua propaggine più dura del suo sound, anche con l'album Revolution for Change su Etichetta Network. Ecco, quest'album era proprio il coronamento della fase più dura, del lato più duro di Underground Resistance, perché essendo un collettivo composto da tanti artisti, anche se questa fase iniziale più che altro da Banks, da Jeff Mills e da Robert Hood, appunto poi con l'evoluzione dell'etichetta la musica prenderà tante strade diverse. Infatti la techno viene un po' considerata, come dice, la techno e la musica pum pum pum pum pum è quella lì. La techno, vi risponderei con gli appassionati di reggae che rispondono, che la gente dice che per loro il reggae è uno, e invece giustamente ci sono tantissime altre filiazioni come il roots, la dancehall e così via. Anche la techno ha tantissime diramazioni poi al suo interno, e se appunto Revolution for Change è l'album che decreta la chiusura del cerchio della loro propaggine più dura, questo World, a nome World to World, è sicuramente uno dei dischi di culto, che proseguirà la strada già aperta con The Final Frontier, e questo è un ennesimo classico per il techno jazz, e qui per quello che viene definita techno jazz. Quindi adesso ci ascolteremo appunto Amazon del 1992, sempre Underground Resistance. il cinguettio dell'Amazzonia, bellissima anche questa Amazon, mi piace molto. Però ecco l'altro lato di Underground Resistance. Underground Resistance è sempre stata una macchina che ha sferrato un attacco al conformismo delle istituzioni e al loro distacco dalle reali esigenze dei popoli, attraverso uno statement monolitico nel quale invitavano i fratelli ad unirsi a questo movimento che voleva indurre al cambiamento, cominciando una rivoluzione sonora. Perché ad essere respirata era un'area di omologazione imposta dal mercato e dai promoters per quanto riguarda il lato musicale e dai governi per quello che concerne il sociale. Un muro invisibile che rischiava di schiacciare le persone, un muro che doveva essere distrutto a tutti i costi e che possiamo ben dire sia stato attaccato violentemente dalla musica appunto di Underground Resistance. Un altro aneddoto che mi viene in mente appunto era per il loro pezzo più famoso, la sigla di stasera di Jaguar di DJ Rolando, nacque una famosa querelle con la Sony Music, che voleva da Underground Resistance la licenza per poter ripubblicare il pezzo visto il suo successo, e Mike Banks ha sempre rifiutato di dare in concessione i suoi pezzi a una multinazionale. E allora, per ovviare a questo rifiuto, la Sony fece fare una copia di Jaguar di DJ Rolando, e a quel punto Underground Resistance denunciò la Sony per plagio e vinsero anche. E quale migliore introduzione per introdurre il prossimo pezzo, che è l'altro grande caposaldo dei pezzi politici di Underground Resistance, che si chiama Message to the Majors, sempre 1992, sempre sull'etichetta Underground Resistance. E appunto questo disco è stato dedicato a Mollis Green, che era un motociclista nero che nel 1992 era stato ucciso a colpi di torcia da due poliziotti bianchi dopo che l'avevano fermato per la contestazione di un'infrazione stradale. E appunto nella copertina interna di questo 12 pollici infatti leggiamo un messaggio di Underground Resistance che recita proprio così: Message to all the murders of the on the Detroit police force, we'll see you in hell, dedicated to Mollis Green. E questa appunto è Message to the Majors, Underground Resistance, Wombat. Strictly underground funk, keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Trippin' on the round one, keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover.

fonderà quella che poi diventerà un'altra etichetta di culto nella Motor City, ovvero la Red Planet. E sicuramente ora non mi metterò, ci vorrebbe un'altra puntata intera solo per raccontarvi della Red Planet di Mike Banks. Volevo solo ricordarvi un paio di cosucce che definirei abbastanza inestimabili, ovvero la cosucce per modo di dire in senso ironico, ovviamente. Come la seconda uscita per Red Planet, che era stato il 12 pollici Cosmic Movement e Star Dancer, appunto, la Star Dancer che citava nel suo discorso di prima Mike Banks del 1993, entrambi capolavori assoluti della storia della techno, entrambi sia il lato A che il lato B sicuramente, sia Cosmic Movement che Star Dancer. E poi un'altra segnalazione per la raccolta LBH 6251876 uscita nel 1999, che è un po' la summa di tutto quello che ha significato questa label per la storia della techno. Ma ritorniamo ad Underground Resistance, perché il 1993 è l'anno storico di UR, e perché esce il trittico Acid Rain su Shockwave e The Return of Acid Rain terzo, entrambi su Underground Resistance, e già qui era la visione dell'Acid secondo il trio di Underground Resistance, ma soprattutto esce l'album doppio Galaxy to Galaxy, l'uscita numero 25 di Underground Resistance. E dopo questo album, dopo tanto corteggiamento, la techno e la fusion si uniscono nel loro archetipo definitivo, che sarà appunto Hi-Tech Jazz, contenuta appunto dentro questo Galaxy to Galaxy, che è una gioia assoluta. È come sentire il canto di liberazione dei neri dentro una navicella diretta verso lo spazio. Appunto in Galaxy to Galaxy è contenuta anche Journey of the Dragons, che è una collaborazione con il padre fondatore della techno, Juan Atkins, che è penso uno dei pezzi più struggenti della storia di Detroit. Quindi vorrei proprio farveli sentire in coppia uno dietro l'altro dal doppio album a nome Galaxy to Galaxy. Ci ascolteremo una di seguito all'altra, Hi-Tech Jazz, nella versione The Science, e Journey of the Dragons con Mike Banks, insieme a anzi, tutti e tre insieme a Juan Atkins e Wombat. Thank you. Questa era Journey of the Dragons con la collaborazione di Juan Atkins. Si sente, direi che si sente abbastanza la mano del buon Juan su questo pezzo, questa atmosfera elettro, questi tappeti di tastiere. Si sente abbastanza la sua mano. Però ecco, a questo punto vorrei fare un attimo un passo indietro a livello temporale per farvi capire un attimo quello che sarà poi un punto cruciale della storia di Underground Resistance. Quindi facciamo un attimo un passo indietro nel 1991, quando a nome X101, uscito su UR numero 13, esce appunto questo album, che è un'opera di tutte e tre, che è un album non solo è un album fondamentale, anche solo per contenere un'autentica perla come Sonic Destroyer, che è un rave sound con innesti sci-fi e diversi spettri soul dentro questa track. Ma poi ecco, dopo questo album, nell'anno dopo ne uscirà un altro, appunto nel 92, però su Trezor, e sarà a nome X102, con il titolo di Discovers the Ring of Saturn, che è sempre fatto a sei mani da tutte e tre, e che sarà uno dei primi album ad usare prevalentemente quelli che vengono chiamati locked grooves, ovvero dei break se suonati in due copie identiche contemporaneamente permettono di appunto chiudere il break all'infinito, può andare, puoi usare questo break all'infinito. Però sarà anche un album fondamentale, perché sarà anche l'album dove Mike Banks inizierà ad usare anche i primi minimalismi, tecnica che poi influenzerà profondamente gli altri due sodali nel proseguo della loro carriera, come vedremo. Perché appunto nell'anno dopo, quindi ritorniamo nel 1993, i soli Jeff Mills e Robert Hood faranno uscire sempre su Trezor un altro doppio album, soltanto stavolta a nome X103, dal nome di Atlantis, spostando appunto l'immaginario verso un universo acquatico che poi diventerà la dimora fissa di un altro act divenuto poi centrale all'interno di Underground Resistance, quell'act che saranno appunto i Drexilla, che sono il compianto James Stinson, che ci ha lasciato nel 2002, e un altro grande della musica elettronica, che è Gerald Donald, che lo ricordiamo anche per altri suoi nomi, come i suoi lavori a nome di Doppler Effect e di ARPANET. E appunto volevo farvi sentire, estratto da questa X103, volevo farvi sentire Tefra, che al di là appunto del resto dell'album, che sarà molto su un mood acquatico, questa già farà capire quello che da lì a dopo questo album sarebbe successo. Ma ascoltiamoci Tefra e ve lo dico dopo. Tefra a nome X103, dei soli Jeff Mills e Robert Hood. Wombat. Thank you. E questo era il martello di Tefra. E da questo pezzo già mi sembra che si possa già intuire che le strade sarebbero da lì a poco divise. L'idea di Tecno dei due era abbastanza diversa rispetto a quella di Mike Banks, anche se poi alla fine, appunto, essendo un collettivo underground, Resistance ha sempre avuto al suo interno, appunto, tante anime diverse, da quella più techno soul a quella propriamente techno, ma anche quella verso il breakbeat o verso altri tipi, appunto, di techno o elettronica in generale. E appunto dopo questo album il percorso dei tre insieme finisce e Robert Hood e Jeff Mills proseguiranno la loro carriera da soli, fondando le basi della cosiddetta minimal techno insieme al canadese Richie Hawtin. E per questo ve lo parlando appunto di questa prima fase di Underground Resistance ho focalizzato un attimo più l'attenzione su Mad Mike Banks, perché appunto Robert Hood e Jeff Mills secondo me meritano una puntata almeno dedicata tutta per loro. Non posso non farvi sentire il leggendario Live at the Liquid Room del 95 di Jeff Mills, leggendario perché in roba tipo un'ora di set mixa insieme qualcosa tipo 55 dischi diversi. Cioè, vedere mixare Jeff Mills è sempre stato come vedere un ragno, sembra abbia 8 braccia diverse, quindi magari un giorno ci ritorneremo sopra. Che c'entra? Sicuramente anche Richie Hawtin ha fatto una gran parte della storia, specialmente quella moderna, però detta fra noi e che non esca di qua, non è che mi rimanga un granché simpatico, e quindi la vita a volte è molto triste, caro Rishi. Però torniamo al nostro Mad Mike Banks, che resterà da solo al comando del timone della comune Underground Resistance, contornato da sempre da quelli che via via entreranno a far parte della cosiddetta Detroit Techno Milizia, come amano definirsi appunto i membri di Underground Resistance, ma appunto c'erano dentro questa grande famiglia, giusto per ricordarne alcuni perché sono veramente tanti, magari tra quelli più famosi i già citati Drexia, oppure i fidati Gerald Mitchell e Mark Floyd, oppure appunto come già citato DJ Rolando, James Pennington, lo stesso Blake Baxter, DJ 3000, DJ Scourge, DJ Dex, Suburban Night, DJ Digital, Galaxy to Galaxy, sono veramente tantissime. E a un certo punto nel 2004 Mad Mike decide di, diciamo, rendere meno underground Resistance, perché invece di rimanere fino ad allora più o meno, specialmente negli anni iniziali, non compariva nessuna foto promozionale, se compariva qualche foto oppure facevano qualche DJ set, erano sempre rigorosamente con il passamontagna addosso. E tutto questo fino al 2004, ma ci sono state delle aperture anche, diciamo, negli anni precedenti. E appunto, però, dopo il 2004 Mad Mike decide di portare all'aria aperta Underground Resistance permettendo alle giovani leve come Mark Floyd, Rafael Merriweather Jr., Santiago Salazar e André Holland, solo per citarne i più famosi, permette di andarsi a promuovere in giro grazie all'organizzazione di un evento come il Timeline, che fino a qualche anno prima sarebbe stato impensabile, vista l'etica rigorosamente underground, straight edge di underground resistance. E invece adesso c'è stata un po' questa apertura e Banks porta in giro il suo collettivo underground resistance all'interno di questa serata Timeline. E poi per dare un attimo una visione più d'insieme di quello che ha significato underground resistance nella storia della techno, perché per la puntata di oggi mi interessava soprattutto focalizzare l'attenzione su questi su questo inizio di quando tutto iniziò, quando ancora tutti e tre erano insieme, però per avere una visione, se volete approfondire appunto il pianeta e l'universo underground resistance, sicuramente vi consiglierei i due album Interstellar Fugitives, il primo del 1998 e il secondo, che è doppio, del 2006. E poi per proprio come seconda compilation uscita come seconda raccolta dell'opera Omnia, in questo caso del solo Mad Mike Banks, la raccolta uscita nel 2006 su Discograph, a High Tech Jets Compilation, contenente la maggior parte delle sue pietre miliari. Però ecco, se vi dovessi far sentire un pezzo di quello che ha significato ancora dopo Underground Resistance, che significa tuttora Underground Resistance nella storia della techno, volevo far sentire questo brano del 2002, uscito appunto in 12 pollici con sul lato A un altro grandissimo pezzo che si chiama Inspiration, e questa è Transition del 2002 con The Mercenary alla voce, e questa è un altro capolavoro della storia di Underground Resistance, che è Transition. Enjoy Wombat. There will come a time in your life when you will ask yourself a series of questions. Am I happy with who I am? Am I happy with who I am? Am I happy with the people around me? Am I happy with the people around me? Am I happy with what I'm doing? Am I happy with what I'm doing? Am I happy with the way my life is going? Am I happy with the way my life is going? Do I have a life? Do I have a life? Or am I just living? Or am I just living? Do not let these questions restrain or trouble you. Just point yourself in the direction of your dreams. Find your strength in the sound. And make your transition. Make your transition. Make your transition. Make your transition. Make your transition. Make your transition. Make your transition. Make your transition. Thank you. much time thinking and not enough doing? Did I try my hardest at any of my dreams? Did I purposely let others discourage me when I knew I could? Will I die never knowing what I could have been or could have done? Do not let these doubts restrain or trouble you. Just point yourself in the direction of your dreams. Find your strength in the sound and make your transition. Make your transition. Make your transition. There will be people who will say you can't, but you will. You will. There will be people who will say, you don't mix this with that. And you will say, watch me. Watch me. There will be people who will say, play it safe. That's too risky. And you will take that chance and have no fear. No fear. You won't let these questions restrain or trouble you. You will point yourself in the direction of your dreams. You will find the strength in the sound and make your transition. Make your transition. Haga tu transición. Make your transition. Haga tu transición. Make your transition. Haga tu transición. Haga tu transición. Preocuparte, nomás júntate en la dirección de tus sueños. Encuentra fuerza en el sonido y haga tu transición. Haga tu transición. Haga tu transición. Haga tu transición. Haga tu transición. Questa era Transition, bentornati qui per i saluti finali dalla regia di Radio Wombat, sempre qui su Tonight Alive. E allora a questo punto non mi rimane che rinnovare l'appuntamento con voi, speriamo per sabato prossimo, e lasciarvi al DJ set che ho scelto per voi per stasera. Dimenticatevi tutto il lato più banksiano di Underground Resistance, perché questo mix del 1992 vede tutte e tre insieme Mike Banks, Jeff Mills e Robert Hood in un set veramente feroce di pura hardcore techno, con addirittura una cosa che mi ha stupito per la techno, soprattutto per la techno americana, Perché pensavo fosse una caratteristica che, tra l'altro, a me non piace per niente, fosse una caratteristica solo della, di certe discoteche italiane. Anche qui, anche qua c'è il vocalist, quindi questa cosa mi ha un po' impressionato. Però 100% hardcore techno per stasera, Underground Resistance live at Limelight, New York City 1992. E quindi tanti saluti dal vostro Dalai Dama, e ci vediamo sabato prossimo. Ciao ciao.